Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Come sentirete fra poco, e infatti vedo che la tua faccia schifata, se volete vendere insetticidi non dovete far vedere gli scarafaggi. Ecco, sì. Lo sentirete nei titoli e poi noi continuiamo su questa roba qui. Benvenuti a Mebius. Se devi vendere insetticidi, non devi far vedere gli scarafaggi. Con le dentiere e la cellulite è diverso. Parliamo di psicologia dello spot pubblicitario. Ora anche gli pneumatici, come gli elettrodomestici, vanno dalla categoria A alla G, scalando per sostenibilità e prestazioni. Quanti amici? Libro per giovanissimi nel quale i quanti sono quelli della meccanica quantistica. La mano robotica deve essere soffice, semplice, ma non imitare troppo quella umana. Raul Montanari, buonasera. Buonasera a tutti. Sono qui con Chiara. Schifata, no, non è vero, perché non posso fare la faccia schifata da naturalista, insomma. È vero, lei è un'etologa, Montanari, lo sapeva? Sarà un'esperta in scarafaggi, allora, sicuramente. Allora, Raul Montanari, scrittore, esperto in comunicazione, che in particolare poi per quanto riguarda la psicologia della pubblicità, lei ha anche tenuto dei corsi all'Università Cattolica e al NABA di Milano. Allora, noi abbiamo dato questo ingresso qui, che però era al centro di un suo articolo recente, no? Se volete fare pubblicità per un insetticida, non fate mostrate vedere... mostrate gli scarafaggi, che poi sembra un po' anche una contraddizione. Invece... Sì, no. Sembrerebbe paradossale, nel senso che noi siamo portati a pensare, basandoci sulla nostra comunicazione orale, normale, i dialoghi che ci sono nel quotidiano, che quanto più noi carichiamo un messaggio, tanto più il messaggio sarà efficace. Infatti noi parlandoci alziamo la voce, gridiamo, usiamo le parolacce, usiamo il nome dell'altra persona, Daniela, ascoltami, per farci ascoltare, per essere più efficaci. In realtà nella comunicazione in generale, in particolare quella commerciale, quella pubblicitaria, c'è una regola diabolica che contraddice questa idea comune. La regola dice in sintesi che il singolo segno può mangiare l'intero messaggio, può divorare l'intero messaggio, se questo segno che è dentro un messaggio è un segno troppo forte e che quindi diventa disturbante in qualche maniera. Qualunque cosa dica viene cancellata da un... In questo caso uno si concentrerebbe nella schifezza dello scarafaggio e non presta più attenzione al prodotto. Partiamo proprio da un'osservazione pratica. Come mai le pubblicità che riguardano per esempio insetti ripugnanti di solito non fanno vedere questi insetti? Il motivo è semplice, che la signora che ha in orrore gli scarafaggi, come la maggior parte per la verità delle signore, la mia fidanzata addirittura sviene quando ne vede uno, vedi? Davvero, vede la pubblicità, non riesce a seguire la sintassi, il messaggio, cioè che la pubblicità dice attenzione, per non avere in casa questa bestia qui, compra il nostro prodotto. Noi ti promettiamo di mettere una X, una croce su questa orribile bestia. Lei vede la bestia e quella pubblicità per lei diventa la pubblicità con gli scarafaggi, anzi addirittura nel linguaggio comune la pubblicità degli scarafaggi. E lei rifiuta la pubblicità nel suo insieme, la pubblicità perde tutta la sua efficacia perché la signora, come compare lo scarafaggio, cambia canale oppure se ne va di là urlando e quindi non ascolta il messaggio. E quindi non è efficace. Però mi vengono in mente altri prodotti che non è che siano elegantissimi, ad esempio, non so, le dentiere oppure non so, i pannolini, piuttosto che ancora peggio gli assorbenti, insomma. Pannoloni. In quel caso lì qualcuno invece li mostra. In quel caso c'è da dire una cosa, che a parte il fatto che sono oggetti comunque che riguardano fenomeni che sono meno ripugnanti dello scarafaggio, c'è anche da dire che i pannoloni e le dentiere, i prodotti per anziani, rientrano nell'abitudine delle persone anziane a parlare normalmente dei problemi che hanno. Le persone anziane, una delle cose che perdono, come sa chi ha a che fare con loro, è in generale l'inibizione che hanno i giovani, diventano meno timidi in realtà, parlano più facilmente, si sentono anche un po' protagonisti, no? con i loro problemi senili e così via. Per quanto riguarda gli assorbenti, i prodotti per le signore, appunto per le donne, rientrano proprio in una logica diversa, nel senso che quelle sono cose di cui le donne fra loro parlano anche tranquillamente. Ecco, queste sono un po' delle necessità, per cui... Sì, infatti lo scarafaggio è proprio un'altra faccenda. Potrei fare un altro esempio, così non rimaniamo bloccati sugli scarafaggi. Sembrerebbe efficacissimo, facendo quelle campagne sociali per dissuadere dalla guida ad alta velocità oppure dalla guida in stato di ebbrezza, sì, eccetera, sì. Parrebbe la cosa più efficace del mondo far vedere cosa ti succede se vai in giro così. Quindi far vedere automobili con cadaveri straziati fra le lamiere, eccetera. Che è stato fatto, in molti paesi è stato fatto. Sono stati tentativi, prima fuori d'Italia, in realtà in Germania per esempio, sono andati tutti piuttosto male. Stranamente, ma non tanto alla luce della nostra teoria, questo modo di comunicare funziona poco perché, ripeto, di nuovo, il segno, cioè la visione del corpo straziato, vince sul messaggio. Io non voglio vedere quella roba lì. Quella roba lì mi fa orrore, mi fa spavento e non riesco nemmeno ad articolare il messaggio, cioè dire certo, se uno guida in stato di ebbrezza, se uno guida veloce, allora succede questa cosa qua. Cioè, anche se certo. Il messaggio è positivo, cioè sarebbe positivo. No, non funziona. È interessante che Chiara parli di un messaggio positivo. Faccio un esempio tratto dalla comunicazione quotidiana fra di noi, no? Mettiamo che io abbracci appunto la mia fidanzata oppure Chiara, che potrebbe peraltro diventare tale, l'abbraccio e le dico, guarda, se ti venisse un cancro, io sarei veramente disperato, la mia vita sarebbe sconvolta. Ora, questo messaggio è interamente positivo, un messaggio estremamente affettuoso, ma la presenza del terribile segno cancro dentro il messaggio ne fa un messaggio dopo il quale Chiara oppure la mia fidanzata fanno tutti quei gesti scaramantici. E lei non mi può vedere, ma io l'ho fatto. Legno tutto il ferro e hanno l'impressione che il messaggio contenga una certa aggressività, non hanno affatto l'impressione che sia un messaggio d'affetto. Quindi la domanda classica è: ma perché ti viene in mente questa cosa? Come mai mi dici questa cosa? È vero, è vero. Ma è quelle invece divaricazioni, cioè cellulite, ma con ragazza di 20 anni magrissima senza neanche un filo, che però promuove il fatto che ha bisogno della crema per cellulite e si vede che funziona lì. Beh, lì c'è il trucco, no? Ti faccio vedere. Lì però potrebbe essere un inganno. Certo, lì c'è un altro fenomeno, in realtà diverso da quello di cui abbiamo parlato finora. Il fenomeno è la televisione, la comunicazione in generale non tiene più conto, perché non la ritiene più importante, di un'obiezione, diciamo, di realtà, cioè non ritiene più che la spettatrice, guardando una ragazza di 15 anni che fa la pubblicità del contorno occhi, quando lei almeno per 20 anni ancora non avrà questo problema. La spettatrice non dice più, come diceva fino direi all'incirca metà anni 80, ma scusate, cosa mi fate vedere? Quella non sono io, questa pubblicità non parla di me. Dà per scontato che nelle pubblicità si vedano bellissime ragazze, come nei film si vedono attori che sono più belli della media delle persone che tu incontri per strada nella tua vita normale. Quindi questa forma, diciamo, di competenza della comunicazione elimina l'obiezione. Ok, è stata inglobata. Montanari, grazie. Grazie, bello, voi, sì. Ne torneremo a parlare magari. Attenti agli scarafaggi. Arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Anche il pneumatico, anzi bisognerebbe dire correttamente lo pneumatico, ma insomma diciamo tutto il pneumatico, sta entrando, è già entrato, nella categoria di oggetti che hanno per legge un'etichetta che ne certifica la qualità, quindi differenziando le diverse tipologie di pneumatici. Per parlare di questa cosa ho qui questa sera Maurizio Boiocchi. Buonasera Boiocchi. Buonasera a tutti. Lei è Chief Technical Officer della Pirelli e dirige insomma la parte tecnica dell'azienda. Ora abbiamo chiamato una delle 3-4 grandi aziende insomma mondiali, non è che siamo qui a vendere i pneumatici Pirelli, perché il tema è appunto di portata legislativa e di grande portata anche proprio nella quotidianità, insomma la macchina e i pneumatici sono qualcosa che ci circonda e quindi abbiamo bisogno dell'esperienza e della competenza di un grande gruppo che lavora su questo oggetto. Ecco Boiocchi, allora, come altri oggetti, come gli elettrodomestici, i frigoriferi per esempio, i pneumatici sono entrati da poco, insomma è un mese, nella categoria, è una legge dell'Unione Europea, no? Sì, dal 1 di novembre tutti i pneumatici prodotti e commercializzati devono avere un'etichetta che qualifica tre caratteristiche fondamentali. Sì. La prima, la resistenza al rotolamento del pneumatico, cioè l'impatto che il pneumatico ha sul consumo di carburante della vettura e di conseguenza delle emissioni di CO2. E adesso vediamo un po' nello specifico. Certo, il secondo è? Il secondo è un indicatore della frenata sul bagnato. Il terzo valore invece sono le emissioni acustiche del pneumatico, il rotolamento che va a un po' spazzolare nell'area dell'inquinamento delle nostre città, inquinamento acustico. Oh, questa etichetta dà un giudizio che, cioè, va da un valore A, che è il più alto? Sì, a un valore, praticamente abbiamo diversi valori crescenti, nel senso che A è il livello migliore in termini di prestazione, G è il livello peggiore, e in range di valori, che sono valori ottenuti attraverso metodologie e misure oggettive o in laboratorio o su strada, consentono di classificare la bontà del pneumatico stesso. La bontà del pneumatico, cioè, un pneumatico A è migliore di un pneumatico E, F o G, sia per quanto riguarda la caratteristica, diciamo, ambientale di resistenza al rotolamento, che per quanto riguarda la frenata. Viceversa, sulle emissioni acustiche si fa riferimento a un valore assoluto in decibel, che può essere 71, 72 o 73. Chiaramente più il valore in decibel è crescente, più il rumore, con una scala logaritmica, diventa noioso e fastidioso. Okay. E quindi, quando si va ad acquistare pneumatici, d'ora in poi occhio a questa etichetta, perché, come nel caso del frigorifero, ci qualifica la qualità e le prestazioni di questo oggetto. Allora, lei diceva, il primo di questi tre criteri è quello che riguarda il rotolamento, no? Cioè deriva da questo fatto fisico, che è il rotolamento del pneumatico sulla strada durante la corsa. Che cosa significa esattamente? Significa che per muovere un veicolo, per muovere un pneumatico, metterlo in rotolamento, dobbiamo dare una spinta longitudinale che è in chili un valore che viene rapportato al carico. Mi spiego meglio. Sì. Se poniamo una tonnellata sul pneumatico, quando io applico 10 kg di forza longitudinale per consentire al pneumatico di muoversi, ho un coefficiente di resistenza al rotolamento 10 su 1000. Okay. Questo è un numero che fa riferimento esattamente a quella scala A, B, C, D fino alla G che dicevamo prima. Sì, questo perché si deve tener conto che un mezzo, nel momento in cui può portare diversi pesi, deve dare le prestazioni, come dire, migliori a seconda, appunto, del peso che sta trasportando. E questo è il criterio, no? Sì, il criterio è esattamente questo. È dovuto sostanzialmente alla forma toroidale del pneumatico, che deve diventare piatto, che si appiattisce sotto l'area d'impronta per effetto del carico, della pressione, delle condizioni di guida, e in questa deformazione ciclica assorbe dell'energia. Certo. Meno energia assorbe, più, diciamo, il consumo di carburante e la scorrevolezza, la facilità di muovere il veicolo diventa importante. Il che vuol dire che ciò si riflette su, per esempio, la frenata. Ciò si può riflettere sulla frenata, fondamentalmente si riflette nel consumo di carburante in condizione di accelerata, frenata e soprattutto di carico. E soprattutto di carico. Soprattutto di carico. Quindi qui si combinano, mi pare capire, varie cose, perché abbiamo questioni di sicurezza, ma anche di consumo, perché abbiamo tutto il problema della riduzione dei consumi, no? La maggiore eliminazione, insomma, di CO2, insomma, ci sono tante componenti che si sommano. Veniamo al secondo criterio, insomma, di giudizio sul pneumatico. Il secondo criterio è quello che chiaramente contribuisce in maniera più diretta e nell'immaginario della gente a dare sicurezza. È sostanzialmente lo spazio di frenata su il fondo bagnato, che è il fondo tendenzialmente più critico per quanto riguarda le nostre strade, le nostre vetture, e che chiaramente invoca la sicurezza. Oggi come oggi abbiamo dei pneumatici moderni con tecnologia, venti la silice, venti chiaramente uno sviluppo e una progettazione molto sofisticata, che sono estremamente performanti in questa caratteristica. Perciò sul mercato possiamo avere pneumatici di concezione di tecnologia più vecchia, che rispetto ai pneumatici di concezione più moderna sono abbastanza lontano. È giusto dare l'informazione all'utente, per cui l'utente sa che se acquista un pneumatico come caratteristica di bagnato A è molto diverso e molto più sicuro rispetto a una categoria D o E. Arriviamo al terzo. Il terzo fa riferimento appunto all'inquinamento acustico, prevalentemente dovuto al traffico nelle nostre città. Abbiamo visto comparire sulle nostre vetture sistemi di stop and go che per motivi di CO2, ma anche per motivi ambientali acustici, fermano il motore quando lo stazionamento è più lungo. Analogamente, a bassa velocità, non essendoci la rumorosità aerodinamica del veicolo dovuta all'aria così forte, il pneumatico diventa più importante. In questa condizione, appunto, i pneumatici vengono caratterizzati come emissione acustica, perciò si fa un test su un fondo ISO certificato, si misura quanto è l'emissione a bassa velocità. Di solito si fa attorno ai 50-60 km all'ora e in queste condizioni si è chiaramente in una condizione urbana di città, perché il problema è lì. Il problema è lì. E lì si vede appunto quanto un pneumatico può, come si può dire, risparmiare in termini di rumore. Senta, tutto questo però sta anche convergendo su un altro aspetto molto interessante per quanto riguarda i pneumatici, cioè stanno arrivando i pneumatici invernali che non sono quelli da neve, e adesso infatti lei ce lo dirà, e sono pneumatici che non credo che ci sia ancora una legge per cui è obbligatorio montare 4 ruote all'inizio dell'inverno e poi sostituirle da primavera in avanti. Non so, c'è già la legge, mi pare di no. Ci sono delle ordinanze. Ci sono delle leggi, diciamo, che geograficamente fanno riferimento a delle aree più critiche o più potenzialmente che possono andare in una condizione di ghiaccio, di neve, dove la cosa è sistematicamente obbligatoria da parte della polizia. Abbiamo però, ad esempio, nel centro Europa delle vere leggi. A una certa data il montaggio dei pneumatici invernali e lo smontaggio a un'altra data. Ecco. In questo caso la legge addirittura inibisce il valore dell'assicurazione in caso di incidente se questo avviene con dei pneumatici estivi durante il periodo invernale, perciò è una norma bella differenza. Molto forte. Ecco, senta, in sostanza, appunto, dicevo prima, non sono pneumatici da neve, perché questi pneumatici invernali cercano di dare prestazioni a partire dall'acqua, che è più facile che piova, no? Dal fatto che il terreno è più freddo, perché così è d'inverno, insomma tengono dentro diversi parametri che vanno ben oltre la neve. Sì, il pneumatico invernale infatti non è un pneumatico solo da neve, il pneumatico invernale appunto è disegnato e progettato per funzionare e dare il meglio in termini di sicurezza quando le temperature sono decisamente più basse. Infatti si suggerisce il montaggio di un pneumatico invernale quando la temperatura esterna va dai 7 gradi in giù. Sì. E questo perché tutte le ricettazioni riguardanti i materiali e le mescole mettono la generazione del grip, cioè dell'aderenza al terreno, all'ottimo in queste condizioni. Il pneumatico invernale, sia come mescole sia come disegno battistrada, lei vedrà che questi blocchetti sono più incisi, perciò lasciano fluire l'acqua in maniera migliore, hanno diversi piccoli intagli che consentono una mobilità, perciò una generazione di calore all'interno del pneumatico è maggiore. Mi pare che, ho solo questo dato, una differenza sulla frenata tra un pneumatico invernale e un pneumatico normale su strada bagnata possa arrivare anche a 20 metri, 25 metri di differenza. Sì, siamo nell'intorno dei valori che lei dice. Maurizio Boiocchi, grazie e buon lavoro. Grazie a lei. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La mano robotica, potrebbe essere detto così anche con questa enfasi il titolo di un film di fantascienza, e invece è una cosa estremamente concreta, anzi dovremmo dire le mani robotiche, per quello che vi stiamo per raccontare. E per raccontarvi di queste cose ho qua con me questa sera Antonio Bicchi. Buonasera Bicchi. Buonasera. dell'Università di Pisa, del centro Piaggio dell'Università di Pisa, però anche dell'IIT di Genova, che è questo istituto di eccellenza di ricerche tecnologiche. Quello di cui ci sta per parlare è il risultato di una ricerca che vede incrociato il centro Piaggio e l'IIT di Genova. Lei è docente di robotica a Pisa, però qui è soprattutto in veste di ricercatori. State lavorando e avete portato ad un livello estremamente interessante una mano robotica. Però io prima dicevo che dovremmo parlare di mani robotiche. Proviamo a incominciare da qui a vedere di inquadrare il problema, perché la cosa singolare è che dietro queste tecnologie specifiche applicate alla robotica, a un segmento della robotica, c'è però un discorso, lo vedrete, lo sentirete, abbastanza strano, anche di tipo filosofico, molto con una grande densità culturale. Allora, Bicchi, voi robotici da tempo cercate di produrre un oggetto così importante ed efficiente come una mano, no? Sì, la mano è da sempre stata uno degli obiettivi più ambiti della robotica, è naturale, essendo una delle parti più interessanti e più efficaci del nostro corpo, sia come azione che come percezione, perché è un importante organo di senso, il senso del tatto. E dà una capacità di efficienza nel rapporto con la realtà fortissima. Però qui c'è un discorso che mette insieme, come dire, semplicità e complessità. Nella robotica le grandi soluzioni dovrebbero sempre avere la caratteristica di essere cercate in relazione a una loro semplicità, no? di funzionamento. Ma sì, lei giustamente diceva le mani robotiche, perché di mani robotiche si parla da tanti anni e è interessante tutta l'evoluzione che c'è stata. Le mani robotiche già 20 anni fa o più esistevano già ed alcuni prototipi erano anche molto efficaci se visti nel loro funzionamento. Quello che è stato fatto in tutti questi anni è stato un grandissimo sforzo verso la semplificazione. Le prime mani erano mani articolate con altrettanti giunti e motori quanti le mani umane, ma il loro problema non era tanto la prestazione quanto appunto la complicazione. Sì. E la semplificazione, si può dire, è stata uno dei temi che ci ha più assorbito in questi anni, cioè arrivare a fare qualcosa che abbia le stesse prestazioni ma in modo più semplice. Sì, e la sfida sta esattamente in questo. Proviamo a creare delle immagini per chi ci sta ascoltando. Allora, la mano con tutte le sue dita, come la guardiamo e la vediamo chiudere, e beh certo, su ogni dito ci sono 1, 2, 3 punti nei quali c'è una indipendenza di movimento, no? Allora, quello che si può pensare è di avere un motorino che in ognuno di questi punti possa funzionare per far muovere tutte e cinque le dita. Questa è una strada, ma non è una strada semplice. Solo che la strada semplice sarebbe forse quella di imitare proprio il corpo umano. Non possiamo passare a questo tipo di semplicità, quella che noi abbiamo nella mano nostra. No, infatti la copia identica di quella che è la natura è una strada che non porta molto lontano. Quello che è invece, diciamo, l'ispirazione che si deve seguire è lo studio, è capire profondamente come nel corpo umano le funzioni sono realizzate, per poi astrarne dei modelli che portino a replicare, magari in modo diverso, con materiali diversi, con concetti anche diversi, le stesse funzionalità. Questa è un po' la strada che abbiamo seguito, ispirati sicuramente dallo studio della mano umana, dai risultati che nello studio del movimento, ad esempio, portano a individuare le cosiddette sinergie, cioè quei gruppi muscolari, tendinei, articolari che si muovono insieme come se fossero un unico elemento motorio, ma che sono in effetti composti da una sinfonia di movimenti di tanti elementi. Certo. E questi sono gli elementi fondamentali che poi noi abbiamo cercato di replicare, e così facendo, semplificando il progetto. E infatti adesso ci arriviamo senz'altro, perché le chiedo: i 20 motorini simulano il movimento, ma poi alla radice invece sono qualcosa di molto diverso, che può avere anche delle grandi inefficienze, e questo è il punto. Sì, è questo senz'altro il punto, perché l'indipendenza di ciascun moto, di ciascun motorino che stimolerebbe uno dei muscoli, è in effetti inessenziale al moto della mano, perlomeno a quei moti principali di maggiore importanza che ci servono nei moti quotidiani, sia per la robotica sia per un'applicazione prostetica. Le cose più importanti sono alcune prese fondamentali che noi facciamo. Ed è stato osservato che alcune combinazioni di questi moti sono quelle che veramente sono indispensabili. Qui cominciamo ad arrivare al vostro oggetto, no? Voi l'avete chiamato soft hand, mano soffice, mano anche dolce, si potrebbe per certi aspetti dire. Questa definizione rappresenta bene la vostra filosofia, che non è quella appunto dei 100 motorini. Come è fatta? Qual è questa chiave centrale della vostra mano? Allora, ci sono alcune idee fondamentali che hanno dato il via a questa mano, che è una di una serie di prototipi che adesso in un certo senso ha culminato in questo che consideriamo un passo avanti di una certa importanza. La prima è quella dello studio delle sinergie, uno strumento delle neuroscienze che appunto chiariscono come alcuni gruppi, alcuni insiemi di motori e strutture articolari vengono mosse come un unicum dall'impulso nervoso. L'altro strumento è l'osservazione di come la mano umana è costruita. Non usiamo cuscinetti a sfera, non usiamo ruote dentate, abbiamo altri materiali che non possiamo copiare identicamente, ma a cui possiamo in un certo senso ispirarci, e questo ha portato a sviluppare nuove tecnologie per la meccanica della mano, che realizzano questa idea di sinergia in un modo soft. Soft significa che la mano è adattabile, è elastica, può essere pertanto anche sicura in un'interazione con le persone e può essere anche robusta. La sua stessa elasticità è quella che permette alla mano di poter essere anche sbattuta su un tavolo violentemente, come si vede in alcuni dei nostri video, in cui la mano può fare questa cosa che normalmente con la meccanica classica non si riusciva a fare, perché porta fragilità. Quindi semplificate dal punto di vista meccanico, ma vi tenete lontani da quella semplificazione che è quella della mano naturale, perché in quella direzione lì forse, mi scusi, sento che anche so che molti dicono anche non bisogna imitare la mano naturale, perché è anche un oggetto che si è costruito in milioni di anni, noi non possiamo fare iket nunca una roba uguale, no? Se noi avessimo a disposizione una cassetta degli attrezzi, mi lasci dire, in cui potessimo prendere muscoli, capsule sinoviali e altri elementi che sono disponibili in natura, perché no, ci piacerebbe farlo, ma questo ancora non è possibile. Quindi abbiamo altre tecnologie, e per altri versi abbiamo cose che possono anche funzionare meglio di quelle naturali, ad esempio più a lungo o con più resistenza. Si tratta più che altro, più che di copiare, come diceva adesso lei, più che di copiare pedissequamente, si tratta di capire, di astrarre da quello che è l'esempio naturale un modello più astratto, se vuole, di comprensione profonda, matematica alla fine di questo si tratta, dalla quale poi estrarre gli elementi che ci permettono di progettare un sistema artificiale che abbia le stesse funzioni del naturale, ma realizzate nei modi più opportuni. Mi pare che abbiamo detto tutto. Concludiamo dicendo che avete ricevuto un premio finanziamento che mi pare venga dal Giappone, consistente su questo progetto? Sì, abbiamo avuto un ambito premio nella conferenza Humanoids, è stato considerato il miglior risultato presentato in questa conferenza proprio recentemente a Osaka. Grazie Antonio Bichi e buona ricerca, ci aggiornerà sui movimenti della vostra mano. Grazie a lei e agli ascoltatori. A presto, arrivederci. Siamo talmente abituati a contare con il nostro sistema decimale, con i nostri simboli, che ci riesce difficile pensare ad altri modi di farlo. Tuttavia, invece, pensate un po' a cosa può accadere presso società nelle quali far di conto non è cosa che interessi molto. I Gumulgal, che vivono in Australia, e anche i Boshimani del Sudafrica, hanno una parola per il numero 1 e poi una per il numero 2 e si fermano qui. Ovvero, il numero 3 è 1, 2, 4 è 2, 2, 5 è 2, 2, 1. Certo, dire 765 è una bella impresa, ma quando mai serve un numero così grande da quelle parti? In Sud America gli albipones sono fantasiosi. Per il numero 5 si usa Neenalek, che vuol dire una bella pelle con 5 colori. Per il 4 usano Geyenknatte, che rimanda alla zampa dell'emu, quella specie di struzzo che ha effettivamente una zampa con 4 dita. Le parti del corpo vanno moltissimo. Ci sono popolazioni che contano a base 20 e noi che usiamo la base 10, ebbene si dice che abbiamo preso ispirazione dalle 10 dita delle mani. Dunque, se i galibi del Brasile contano in base 20, cosa vorrà dire? Che contano anche quelle dei piedi? Esatto, il numero 20 ha un nome: Popu Partoretto Pume. I Kewa della Nuova Guinea hanno una base a 47, ci mettono dentro un sacco di roba, tutte le dita, i talloni, palmi delle mani, collo, braccia, occhi e altre parti del corpo, anche visto da dietro. Per capirci, ma invento, ginocchio significa 31. Oh, dunque adesso vi racconto di Houton de la Billardère, antropologo francese dei primi dell'Ottocento, che fece un viaggio esplorativo nelle isole del Pacifico. Disgraziatamente la sua nave rovinò sugli scogli di un'isola dell'arcipelago delle Tonga, distrutta. L'attesa per una nuova nave durò molti mesi. Houton li impiegò a studiare i locali. Si ha la sensazione che anche i locali presero a studiare Houton. Lui decise di concentrarsi sul sistema di numerazione usato dai tongani e qui, con sua enorme sorpresa, scopre che Laolai vuol dire 10 milioni. Non basta. Tolo Tafai significa 10 miliardi. Ma come mai questi tongani avevano bisogno di contare fino a 10 miliardi? Houton ha un'intuizione. I tongani coltivano igname, tubero del genere Dioscorea, molto più noto come patata dolce, e le patate sono tantissime. Ci sarà l'esigenza di contare tutto questo prodotto. Ecco perché hanno questi grandi numeri, pensa lui. Però Houton de la Billardère non conosceva bene il tongano, lo parlava appena appena. Qualche anno dopo giunge in zona una nuova spedizione, della quale fanno parte degli antropologi che conoscono bene il tongano. E costoro, parlando con i tongani e sentendo della vicenda, capiscono che Houton è caduto in un trappolone. Infatti, il termine Laolai non significa 10 milioni, ma prepuzio. Tolo Tafai invece non vuol dire 10 miliardi, ma pene. Ma i tongani avevano detto a Houton che loro avevano un nome anche per il numero più grande che potesse essere pensato, qualcosa che poteva essere un equivalente del nostro infinito. Questo nome era Kimaov. Kimaov, che in tongano vuol dire ingoiati tutte le cose che ti abbiamo raccontato. Conclusione. Occhio ai tongani, gente astuta e spietata, soprattutto se siete antropologi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sono qui in studio con Stefano Sandrelli. Ciao Stefano. Ciao, ciao a tutti. Fisico dell'Osservatorio Astronomico di Brera, ma ormai quasi più narratore. Quasi. Quasi più narratore. È una mia vecchia passione, quella di raccontare il cielo, di raccontare le stelle, di raccontare la fisica. Adesso qui però hai preso una sfida molto elevata. Vogliamo introdurla con due tuoi personaggi? Anna e Luca, sentiamo cosa dicono. Anna, vieni, presto, andiamo a casa. Cos'è successo, Luca? Ero sulla casetta sopra l'albero, quella vicino al sottetto. Sei caduto? Leggevo, ad un certo punto ho sentito delle voci, un uomo e una donna. L'uomo era zio Pino. Ah vabbè, che c'è di strano? Di strano c'è che lo zio Pino sta parlando delle mandorle amare. Vuoi dire del fatto che se ne mangi tante possono essere pericolose perché contengono un veleno? Non mi pare un segreto, lo zio Pino ne parla sempre. Il veleno è cianuro, Anna, non ti dice niente? Vede, perché lui dice, Luca, Anna dovrebbe sapere che dietro questa roba del cianuro c'è un segreto. Quanti amici è il titolo del libro che hai scritto, edito da Feltrinelli, la collana Kids. Quanti sono i quanti? La meccanica quantistica, quella di cui ogni tanto, anche con difficoltà, perché non è banale, ne parliamo qua in trasmissione. Qui tu hai voluto sfidare il fatto di raccontarla. E beh, questi che abbiamo sentito sono due giovanissimi che è rivolto a loro il libro. Sì, sì, è rivolto a loro. L'idea base è proprio... Ok, proviamo a scrivere un facciamo finta che. I ragazzini, i bambini soprattutto sono espertissimi, no, in questo. Entrano in mondi magici, basta che si dicano una paroletta. Dai, facciamo che io ero, facciamo che certo. Tu sei. E il mondo della meccanica quantistica alla fine è proprio un facciamo finta, perché racconta di esperienze che sono assolutamente fantastiche, insomma. No? È un po' una favola, tu dici, anche per adulti in fondo. È un luogo in cui valgono delle regole che... prima vanno apprese senza avere la presunzione di poter interpretare quel mondo con i giudizi che già abbiamo, no? Per cui, ok, beh, niente può passare attraverso un muro. Beh, nella meccanica quantistica non è proprio così. Facciamo finta che io ci passi. Ah, che succede? Certo. Questa è un po' l'idea narrativa. Quindi in un certo senso tu dici il bambino può essere molto più predisposto ad accettare questo aspetto che... per lui è favolistico, no? Sì. Perché effettivamente non si pone quelle concretezze che invece poi tu hai, sì, da adulto. Non ha quell'ambito di esperienze che noi invece utilizziamo, però con presunzione, per cercare di interpretare tutto il noto. È la classica chiusura mentale dell'adulto, no? Che il bambino non ha. Quando un adulto mi dice, ah, io non capisco la meccanica quantistica, no, è perché tu stai cercando di forzare la cosa, mentre facciamo finta che le cose vadano così e poi ci rendiamo conto che è davvero in questo modo, perché altrimenti il sole non brillerebbe, perché altrimenti i computer non esisterebbero, perché altrimenti anche la televisione che accendi la sera non si accenderebbe. Qui però, appunto, anche perché lo diciamo spesso anche questo in trasmissione, effettivamente questa meccanica quantistica ha un'enorme possibilità di applicazione, ma c'è dentro qualcosa di magico e che è anche logico che ci possa sfuggire. Messo in favola, tu dici, assume anche una sua certa coerenza. Senti, allora, parlavamo del cianuro, delle mandorle, sentiamo adesso un altro pezzo in cui è Anna, che è uno straccio del libro, un po' più avanti, perché che è collegato a quello di prima. Nel sogno il cuscino era come un'isola circondata da un mare di semolino. Era un mare granuloso, dove si muovevano delle onde, alcune lente, altre veloci. A volte si sovrapponevano e formavano un'onda immensa, e in quel momento avevo paura, perché temevo che l'onda mi avrebbe portato via. In altri casi, invece, le onde si annullavano e il semolino era completamente piatto. Che incubo! E quel che è peggio, non capivo più chi ero, se ero Anna o Luca, se ero una ragazza o un'onda. Poi arrivava un animaletto, secondo me era un topo, si sdraiava sul cuscino vicino a me, e io gli chiedevo, «Topolino, topolino, cosa fai sul mio cuscino?» E quello rispondeva, «Penso molto ma non parlo, ho un pensiero come un tarlo, che mi fa uscire matto, sono un topo o sono un gatto?» Il gatto, qui ci sono tutti gli ingredienti di base. Abbiamo cominciato con il cianuro che arriva fuori dalle mandorle, qui c'è il topo, c'era anche prima il gatto. Qui qual è il concetto di fondo che cerchi di spiegare? Ma la meccanica quantistica si basa sull'idea di probabilità. Un elettrone può essere ovunque nello spazio e è associato in ogni luogo dello spazio una certa probabilità di trovarcelo. E in matematica questa cosa si descrive con delle funzioni che sono chiamate tecnicamente onde, perché rispettano certe equazioni. Quindi l'idea dell'onda sostanzialmente è ciò che permette appunto a un atomo di essere diffuso, che permette a un elettrone di passare attraverso il muro e così via. Quindi l'idea di base è proprio probabilità e onda, dopodiché è mescolata con questi elementi che sono molto fanciulleschi. L'idea del mare di semolino e delle onde che lo solcano, per esempio, è un sogno che feci io da bambino, ma veramente da bambino, uno dei primi sogni che ricordo, no? a casa della nonna mentre avevo la febbre, mentre la filastrocca del topolino è una filastrocca che avevo inventato anni fa in tempi non sospetti per i bimbi, ma che è un po' amletica, ed effettivamente tante delle particelle elementari hanno questo senso amletico dell'essere, del non essere, del non so bene dove sono, del se sono vivo o sono morto, no? E quindi c'è tutto quel discorso, c'era del paradosso del gatto di Schrödinger, che forse qui potremmo anche invitare, perché mi pare che poi su quella storia del gatto di Schrödinger lui stesso disse Schrödinger era stato interpretato forzato, certo, un po' troppo, certo, no? Sì, ma questo però lo diciamo agli adulti, sì, solo ad adulti, ai bambini lasciamogli la favola e il gioco. Gli lasciamo Quanti amici sulle onde della fisica moderna, Stefano Sandrelli che sei tu, quindi ti ringrazio per essere venuto, edito da Feltrinelli, la collana Kids. È un libro piccolo, no? Cos'è? In quanto se ce l'abbiamo qui davanti sono un centinaio di pagine. Sì, sì. Quindi è una storia assolutamente abbordabile per dei giovanissimi. Grazie e ciao Stefano. Grazie a voi. Alberto Agliotti adesso vi racconta che... Los científicos pronostican huracanes y tormentas más violentas. Las sequías comienzan a acentuarse y a afectar cultivos. Gli scienziati prevedono uragani e tempeste più violente. I periodi di siccità iniziano ad aumentare e ad avere effetti negativi sui raccolti. Il mare, centimetro dopo centimetro, sta divorando le spiagge. È il cambiamento climatico, l'impronta che 7 miliardi di umani stanno lasciando sul pianeta. Siamo responsabili, però anche testimoni e vittime. Pero también testigos y víctimas. Sono le parole con cui si apre È il rostro umano del cambio climatico, il volto umano del cambiamento climatico, cortometraggio di Juan Alvarez, che ha vinto il recente Think Forward Film Festival che si è tenuto a Venezia, festival di cortometraggi dedicati all'ambiente e ai cambiamenti climatici, e che è stato proiettato anche a Doha, dove invece si è svolta la conferenza delle Nazioni Unite appunto sui cambiamenti climatici. Valeria Barbi, buonasera. Buonasera. Valeria Barbi è ricercatrice all'International Center for Climate Governance, che è un'iniziativa comune della Fondazione Eni Enrico Mattei e della Fondazione Cini, ed è un centro di ricerca internazionale con sede a Venezia che ha organizzato il festival e che si occupa appunto dello studio sui cambiamenti climatici. Allora, facciamo un po' il punto della situazione, cosa si è detto, cosa si è concluso a Doha. A Doha, al termine di 2 settimane intensive di negoziazione, sono stati essenzialmente formalizzati gli impegni di Kyoto. Viene dunque inaugurata o quella che viene definita una nuova piattaforma negoziale per la creazione di un trattato globale che dovrebbe essere firmato entro il 2015. E questo è l'aspetto positivo, diciamo? Assolutamente sì. Diciamo che una nota importante è l'inserimento in quello che appunto è stato chiamato il Doha Climate Gateway di una clausola che impone ai paesi rientranti nell'accordo un taglio del 25-40% delle emissioni rispetto al 90. Cosa vuol dire 25-40%? Una riduzione delle emissioni rispetto appunto al 1990 necessaria in modo tale da rispettare la richiesta avanzata dall'International Panel for Climate Change di tagliare le emissioni globali al 2050, quindi uno step successivo, del 60-80%. Ovviamente parliamo di riduzione delle emissioni aggregate, un dato aggregato, quindi globale. Globale vuol dire quindi che qualche paese può emettere di più e qualcuno di meno? Sì, certamente sì. E questo è uno degli aspetti negativi, se vogliamo? Sì, però forse il dato peggiore tra tutti è l'uscita dall'accordo di paesi come Russia, Giappone, Nuova Zelanda e Canada. Poi il fatto che i grandi assenti, quindi Stati Uniti e Cina, hanno ribadito appunto la loro estraneità dall'accordo, e che è incredibile se si pensa che questi due paesi emettono rispettivamente il 16 e il 19% delle emissioni totali. E invece confermano la loro presenza Unione Europea, Bielorussia, Croazia, Norvegia, Kazakistan, Australia, Svizzera, Monaco. Insomma, bene perché c'è dentro l'Unione Europea, male perché alcuni dei paesi sono comunque molto piccoli e in totale rappresentano il 15% delle emissioni totale. Tornando al cortometraggio di cui abbiamo parlato, uno dei temi centrali, non solo nel cortometraggio comunque, è quello dell'adattamento al cambiamento climatico. Sì. Cioè noi vediamo, assistiamo a dei fenomeni che sono in linea con le previsioni, con gli scenari previsti dagli scienziati del clima, anche se, chiariamoci, il singolo episodio non può essere considerato un indicatore di cambiamento climatico. La tempesta tropicale Sandy ci ha colpito molto perché si è abbattuta su New York, ma certo, non può essere considerata lei come un indice del cambiamento, anche se dentro a questi fenomeni comunque una percentuale di influenza del cambiamento climatico sicuramente c'è, e c'è un dato inconfutabile che è quello dell'aumento della temperatura. Esatto, diciamo che per quanto riguarda gli eventi estremi manca una chiara correlazione statistica, mentre invece per quanto riguarda i cambiamenti climatici e l'aumento della temperatura possiamo affermare che la comunità scientifica internazionale ormai ha ampiamente riconosciuto tale fenomeno. E a tal proposito è necessario che i governi si concentrino da una parte in quelle che vengono chiamate azioni di mitigazione, quindi quelle azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas serra, e dall'altra a tutta una serie di azioni che rientrano in quello che viene definito adattamento. Cioè, se il cambiamento climatico è inevitabile e è in atto, da una parte dobbiamo contrastarlo, ma dobbiamo anche prepararci a tutirne gli effetti. Sì, diciamo fare qualcosa, perché comunque non si tratta poi di immobilismo, cioè l'adattamento implica comunque il fare qualcosa per adattarci a questo cambiamento che comunque in un certo senso non dico che è inarrestabile, ma ovviamente è difficile che si possa fermare del tutto. Per quanto riguarda l'adattamento, le azioni che si possono intraprendere sono molteplici e vanno sia a livello nazionale, sia a livello regionale che locale. Ad esempio, il singolo cittadino può fare davvero moltissimo per adattarsi al cambiamento climatico e per contrastarlo, con tutta una serie di azioni che poi vengono definite best practice. E voi come istituto lavorate molto su questo aspetto? Sì, noi come istituto stiamo per lanciare una piattaforma che verrà lanciata ufficialmente tra gennaio e febbraio del 2013, il Best Climate Practices, che è appunto un osservatorio che raccoglie tutte le migliori pratiche nel campo del cambiamento climatico a livello globale, che meritano l'attenzione proprio per la loro capacità di contrastare il cambiamento climatico e anche per le loro possibilità di implementazione. Insomma, come si diceva in un altro dei film visti a Venezia, se c'è la siccità non dobbiamo semplicemente stare seduti e aspettare che piova. No, assolutamente no, direi. Va bene, grazie Valeria Barbi, buona serata e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci, buona serata. Se per caso vi state trovando nella situazione di portare in discarica una vecchia lavatrice, ecco, aspettate, perché la prossima settimana potremmo dirvi come usare il cestello per fare musica e poi anche le vecchie scope e le corde per stendere il bucato. Ci troviamo qui fra 7 giorni. Buona settimana a tutti.